Ciao, sono un tortiglione di grano saraceno ben dotato di sali minerali. Cerco un incontro ardente per sentirmi al dente. Con i tortiglioni Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta. Ciao ragazzi e bentornati a Morti di Bestemmie. Questa è la puntata 1x01 e sono qui con me, anzi non vi dico ancora chi sono perché me lo diranno loro, e sono qui con me... Come cazzo vi chiamate? Marco Biggio. Siamo gli altri. Marco Biggio e Simone Biggio. Ma ovviamente Marco Biggio deve dire ciao dall'altra parte. Dalla parte della diretta. No, aspetta, scusate, perché così c'è questo problema di Skype, ragazzi. Voi lo dovete capire che noi stiamo cercando di abolirlo definitivamente. Ma purtroppo, in realtà, il nostro sponsor, perché morte di bestemmie. Morte di bestemmie e Skype, esatto. Però fino a che purtroppo non inventeranno il teletrasporto, siamo costretti a utilizzare Skype. E quindi salutiamo anche Alex Biggio. Buonasera. Sono un lord inglese questa sera e ho parcheggiato qui. I park dear. Ecco, a posto. Iniziamo subito alla stragrande. Diciamo a caro Alex Biggio che la mia puntata non è andata malissimo, insomma, pur essendo un podcast. Siamo stracontenti. Addirittura ci fermano per strada per ammazzarci di bestemmie. Ma non solo, addirittura iTunes l'ha accettato, che noi eravamo convinti che non sarebbe stato possibile questa cosa. Ma la cosa più grave è che su iTunes siamo stati accettati nella sezione commedia, che potrebbe anche starci. Noi siamo un po' dei comici di cabaret povero. Esatto, insomma, ci sarà Marco Biggio. Ma il problema è che siamo quarti. Siamo quarti. Ma quegli altri, ma perché? Ma gli altri come stanno messi? Incredibile. Che schifo, vabbè. Benissimo, allora, poi che altro dobbiamo dire su, insomma, perché io vedo un po' di bla bla bla su questo documento iniziale, perché pensate, la prima puntata non eravamo neanche col documento, invece questa puntata ci siamo fatti un documento, una scaletta. Sì, docet minor maximus x, y, perché questo è scritto in latino? non lo so. Riempie molto, dà molto l'idea della... Vabbè, io direi che si potrebbe anche cominciare a parlare di qualche cosa, di entrare un pochino sul vivo. Innanzitutto ringraziamo tutti quelli che ci hanno scaricato, playato, streamato, eccetera eccetera. Chi ci sta ascoltando adesso? Li salutiamo. Ma c'è qualcuno che ci sta ascoltando adesso? Chi può dirlo? Allora, perché spieghiamo un attimo questa cosa. Noi facciamo uscire il podcast normalmente, lo spieghiamo. Però per 40 minuti come test, anche veramente in maniera test, con 4-5 persone che stanno lì in beta a fare, siamo anche in diretta. Ma questa diretta durerà soltanto 40 minuti perché purtroppo noi siamo dei pezzenti, diciamo la verità. Però tanto è un test, quindi chi se ne frega. Ma diciamo, Alex Biggio, qual è il titolo di questo fantastico episodio? Allora, no, prima di iniziare vorrei ringraziare Carmine Puccio Console, che è l'unico che ci sta seguendo, probabilmente. Per cui un ciao, un bacio e una leccata di figa con la lingua. Anche perché leccare senza la lingua mi sembra difficile. L'eleganza. Questo è un podcast di altri tempi. È un podcast. Allora, di cosa parliamo in questa puntata? Questa puntata l'ha proposta su un treno completamente pieno, perché ce n'erano due che non sono arrivati, Simone Biggio, quando era andato a casa sua a fare un lavoro che culminerà con Inevitabile. E praticamente abbiamo parlato di tutto quello che è violentemente trash e che giunge dagli Stati Uniti d'America, e nella fattispecie di UFI, sci chimici e redneck sodomiti. Ecco, che sono quelli più importanti. Ma perché redneck sodomiti? Come vi è venuto in mente? Su quel treno c'erano dei redneck sodomiti? No, lì, a parte il treno era pieno, quindi la sodomia di sci chimiche, di sci chimiche. Sci chimiche, quelle ce n'erano una cifra, di sci chimiche. Probabilmente pure io stesso ero una scia chimica in quel momento. E poi di sodomiti sul treno pieno, è quasi viene da sé. Diciamo così. È normale, di per sé. Facciamo partire lo stacchetto. C'è uno stacchetto? Non lo so. Vediamo che stacchetto è. Non c'è uno stacchetto, vaffanculo. Porco, andiamo. Due, no, c'è uno stacchetto, devo solo caricarlo. Lo deve caricare, perché ecco, noi siamo sempre così pronti in realtà. Però fa niente. Adesso ne mando uno a cazzo. Pronti per lo stacchetto? Diciamo... Pronti per lo stacchetto? Stacchetto. Boh, noi non sappiamo quanto dura questo stacchetto, quindi facciamo finta che è finito, no? Perché? se cazzo lo stacchetto dura 12 secondi e tu inizi a parlare dopo, ma noi non possiamo saperlo. Comunque, ma no, dovete saperlo. Vabbè, lo stacchetto c'è stato. Vai. C'è stato. Vabbè, ma noi siamo quelli che abbiamo installato Skype 5 minuti fa. Esatto, diciamo la verità. E che ho dovuto riavviare perché non funzionava la scheda audio, quindi figuratevi come stavo messi. Bene, allora di UFI. In realtà non vogliamo parlare di UFI, non vogliamo parlare con Carlo. Aspetta, comunicazione di diretta, c'è anche Danilo Giardino che ci sta seguendo, con la sua immagine di pirata da Monkey Island. Grande. Ma ci possono anche scrivere sulla chat, se vogliono. Ci stanno scrivendo sulla chat. Ah, ti stanno scrivendo. Ci possono anche mortacci di bestemmie. Esatto, ci possono mortacciare di bestemmie. Quindi noi ci vediamo di quello che dice Alex, perché noi non abbiamo. Ma no, la vedete sul link della pagina? Su quello che ha pubblicato. Comunque diciamo, non ce l'abbiamo. Aspettate. Sì, non fare queste cose. È successa una cosa strana. Non ce l'abbiamo con gli UFI, cioè nel senso che noi gli UFI non devono morire di bestemmie. Devono morire di bestemmie tutti quei programmi di canali che adesso non citiamo per ragioni insomma anche professionali, diciamo. Poi metteremo i link tutti questi fantastici programmi che insomma da Voyager in poi hanno portato una degenerazione verso un'informazione extraterrestre, diciamo, in insomma. Realtà da Voyager in poi in Italia, perché Voyager arriva dopo, insomma, perché in America e altrove stanno ben avanti, però insomma diciamo che in Italia programmi di cultura pesante come Voyager, insomma, hanno aperto la porta a tutti questi bei programmi del manga, e quindi ne vogliamo parlare. Parliamo. Allora, diciamo che io e Marco tante volte, che ne so, ci vediamo a casa e ci vediamo i serial televisivi. Finiti i serial televisivi, Marco dice: vabbè, però, che ne so, sono ancora le 11:30, è presto. Invece di andare subito a casa, incominciamo a girare sui canali. E perché ti ci stanno i film porno? No, i film porno non ci stanno più. Ma poi sono io, si finiscono tutti allo stesso modo. Andiamo a vedere qualche altra cosa. Morte di bestemmie, quei fantastici canali televisivi. Sì. Dove alla notte, a mezzanotte, vedevi, che ne so, Telelupo, queste cose così. E insomma, a un certo punto ci sono questi programmi tipo Enigmi Alien, che sono fantastici, perché... Aspetta un secondo, ridì ancora Enigmi Alieni. Enigmi Alieni. È inevitabile. Sto cortocio. È inevitabile. I nostri ascoltatori hanno sentito anche il suono di un pulmine. Il pulmine. Il pulmine. E vabbè, insomma, che succede in queste trasmissioni? Che non è che si limitano a dire che, insomma, c'è qualcuno che crede agli UFO, ma in realtà riescono a costruire un teorema scientificamente comprovabile dell'esistenza degli UFO, Marco. Perché? Perché lo dicono i ricercatori. Perché? Allora, che succede? Che loro partono dalle piramidi egiziane. Cioè, le piramidi egiziane, che è la cosa più classica. Mentre Carmine Console, dice che Enigmi Alieni, che cazzo è il sudoku dei marziani? Probabilmente sì. Quello... Che praticamente, che succede? Succede, allora, ma vabbè, le piramidi le lasciamo perdere perché sono quelle più classiche. Però presentiamo, che ne so, la campana di Hitler. Bravo, oppure no, l'eugenetica. Oppure ancora Giovanna d'Arco, perché in realtà sentiva le voci, ma non sentiva le voci perché erano gli alieni che gli parlavano. I ricercatori affermano che molto spesso quando si è sul fuoco si sentono le voci da alieni. Esatto, questo, a un certo punto ti fa tutto questo discorso che è collegato in maniera stramba, e che succede? Succede a un certo punto lo speaker ti dice: ma secondo dei famosi ricercatori questo comprova il fatto che, e nessuno ti dice mai che cazzo sono questi famosi ricercatori, oppure che ne so, fa una citazione, oppure dice degli, che so. Adesso sentiamo un famoso ricercatore, e sotto appare, che ne so, il sottopancia dove sta scritto John Smitherson, noto cialtrone dell'Ohio, che sta lì e ti dice: io so questo, perché in realtà se tu leggi il testo sacro ti racconta che questi, insomma, devono morire bestemmie sta gente. Soprattutto poi c'è il loro capo, quello che edita un magazine che si chiama, lui si chiama un nome tipo Aristotele Piroscafosso, non so, un tipo di origine greca, quelli sparati in testa, che è stupendo, che c'è proprio la faccia di quello che te sta inculando. Sì, perché ce ne stanno vari programmi su questi canali che non citiamo. Ci sono vari programmi, è sempre lui però. Sì, cioè lui è sempre lui. Lui è l'editore di un magazine di merda praticamente, quindi dici Alex Biggio, che stavi dicendo? Ma in realtà se tu fai un business è ovvio che poi vai avanti, devi portare a casa i soldi per il mutuo. Io sono il primo a dirlo, che ragazzi, signori, bisogna lavorare, e se uno riesce a costruirsi il suo personaggino è giusto che vada avanti a venderselo. E a vendercelo. Ma perché, caro Marco Biggio, noi ce l'abbiamo con questo un programma in particolare che adesso non ci ricordiamo neanche come si intitola, quello là che comprova il fatto. Penso si chiamasse UFI. Dove c'è questo gruppo, esatto. Tipo, no, avete presente i Ghostbusters? Esatto, no, sono UFI Busters. Esatto, una cosa del genere. Dove c'era il texano che annuisce sempre. Il cappellone. Il baffone. Il cappellone. È vero. C'era quello ragazzo. Questa è merda lì, era Poi c'era la donna che è la Skelly della situazione, c'è il ragazzotto quasi di provincia che è quel nerd, il sempliciotto nerd, sì. Che però sa le cose, e un altro personaggio che non so chi sia probabilmente, che poi viene fatto fuori dalla serie perché ride, esatto. E che praticamente a un certo punto in questa puntata i misteri del lago Michigan, gli UFI del lago Michigan. No, Carmine, non credo che sia Mythbusters, quello è ancora peggio. No, ma Mythbusters perlomeno prende un po' per il culo. No, assolutamente no. Praticamente c'è questo tizio, questi tizi che vanno a incontrare questa famiglia che ha visto gli alieni, giustamente, sul lago Michigan. Vai nel Michigan, vai nel lago, intorno al lago, e vedi gli alieni. Questa famiglia viene presa, e a un certo punto cappellone, che è stato zitto, cioè io adesso ti faccio l'ipnosi. Taglio, lui sta sdraiato, ecco, okay, rilassati, ora sei ipnotizzato. Sei ipnotizzato. E poi parte con questa descrizione. Hai visto gli alieni? Sì, ho visto. Ho provato che ha visto gli alieni. Avete visto? A lui annuisce. Poi gli fanno fare l'identikit, che è bellissimo. Cioè, praticamente il classico libro degli identikit con le varie parti, non so, fronte, occhi. Tipo, che sono tutti uguali, sono tutti classici alieni con quelli bianchi. Che però invece di avere il nero, il bianco, il baffone, sono tutti con la testa tonda e gli occhi neri. Però esatto, che cambiano le dimensioni. A un certo punto viene fuori, è lui. Accidenti, questa è una mantide, perché le mantidi sono una razza di aliene che è veramente pericolosa, viene sulla terra a fare cose. No, viene a fare delle cose bruttissime. Chiamano, fa cascare gli aerei. Questo tizio che arriva, paonazzo, perché già non c'ha con la mano sulla bocca, che cerca di trattenere. Esco fuori. Lui è scioccato. È scioccato perché le mantidi sono stronze. Lui non le sopporta. Si fanno migliaia e migliaia di anni luce per venire qui sulla terra a fare cascadere. Pensa se non sono stronzi questi. Vengono una cosa incredibile. Poi è stato licenziato queste mani, però. No, ma la cosa ridicola è che questo qui non hanno neanche sprecato il tempo di rigirarla la scena. Esatto, non l'hanno lasciato proprio il tipo che rideva direttamente in camera, meraviglioso. Sì, sì, infatti a un certo punto lui sparisce, il tizio, perché dice no, proprio io non ce l'ho. E tutti giustificano dicendo non ce l'ha fatta, lui non la sopporta questa cosa delle mantidi, non le sopporta. Ma si vedeva proprio lui che rideva, cioè diceva no, ragazzi, è andato dal produttore esecutivo, a ragazzi, ste stronzate io non le faccio. No, non li voglio i soldi, però me ne vado, va bene così. Ma hai dei penali, e quindi ha dovuto dire purtroppo le mantidi. Sì, hai ragione. Purtroppo le mantidi. Non posso credere che ci siano alieni cattivi, no. Come dice il buon Alex Biggio, adesso ci spiegherà perché insomma un po' nel meccanismo. Questa gente deve morire di bestemmie perché veramente neanche li rigirano. Cioè, questa no, ma non è neanche buona la prima. Questi penso che fanno l'intera stagione in una settimana, giusto, Alex? Sì, ma io dico sempre, e adesso mi metto sempre dalla parte dell'impero del male, che il problema non è mai la parte del la parte dell'impero del mare, che è un pochettino diverso. Il problema non è mai nell'offerta, è sempre nella domanda, perché se c'è qualche stronzo che se le guarda ste cose, allora questi fanno anche bene a vendergliele ste cagate qua. Cioè non lo so, se qualcuno mi venisse a dire Leale, mi vendi la tua cacca, e dico volentieri, adesso invece di farla nel vate la faccio nel vasino, la raccolgo e te la consegno, e così mi pago anche il mutuo. Cioè, per dire, non è colpa mia se tu vuoi comprare la merda, è colpa tua che te la guardi la merda. Infatti io volevo fare ultimamente mi sono andato un po' a sbirciare su Spreaker proprio, che è questo strumento che noi utilizziamo ovviamente per fare questi nostri fantastici podcast e presto magari anche live, come in questa specifica occasione. Noi non paghiamo il mutuo, quindi possiamo anche fare porcate. Esatto, ma noi ci giustificano qualsiasi cosa, noi non ci pagano e non paghiamo, quindi soprattutto. E che ho visto che questi podcast complottistici, ufistici e roba del genere, c'hanno migliaia di download, ma tipo 10, 30, 50 mila download, cioè cose che veramente fatte col microfonino potremmo fare anche, cioè, no, questo Alex, noi non abbiamo capito un cazzo, questa è la verità. No, che non abbiamo capito un cazzo l'avevo capito. Si sa oramai da 6 anni come minimo, insomma, questa cosa. E quindi quelli che devono morire bestemmie un pochetto siamo anche noi, diciamocelo Alex, diciamocelo Marco, perché insomma. Io ho una confessione, sto nuovo. Sto UFO è, forse apro un podcast che si chiamerà Ho visto UFO. L'UFO nel culo. A posto, sempre elegante. Questo si potrebbe anche ricollegare con quello che verrà alla fine di questa puntata. Alla fine, sì, ma poi ne parliamo verso la fine, insomma, anche di questa cosa. E insomma, voglio dire, alla fine è bellissima sta cosa, perché nel lago Michigan c'è un UFO, l'hanno visto l'UFO. Mica uno. Andiamo a dimostrare che ci sono gli UFO, vanno lì. Prendono una persona, tu hai visto l'UFO? Sì, abbiamo dimostrato inevitabilmente che ci sono gli UFO nel lago Michigan. E quindi morite dei bestemmi, Marco. Volete aggiungere altro? Penso insomma che i nostri due ascoltatori vogliono aggiungere qualcosa. Ma allora, stiamo ancora parlando di complotti oppure ne parleremo dopo? Perché prima di chiudere la questione dei complotti volevo essere un po'... Ma tanto è tutto mischiato, tutto chi se ne frega un po' di cazzo, sì. Va bene. Allora, la cosa che mi spaventa molto nel complottismo generale, quello che appunto sta sorgendo, e grazie all'internet con tante T, è molto più... cioè è molto radicato ultimamente. È che secondo me la gente ha bisogno di qualcosa... Di una fede, di un qualche tipo di fede. E la fede di una volta, la religione classica, sta un po' sparendo di coolness, di cosa figa, perché ci sono altre cose che appunto vengono fuori, tipo la scienza che spiega alcune cose che prima la religione non spiegava. Poi a un certo punto la religione ha detto: ragazzi, noi vogliamo parlare di altre cose, la scienza rimane la scienza, la religione parla di altro, va bene. Per cui diciamo che c'è come se qualcuno avesse bisogno di sentire la necessità che dietro c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di più di quello che vediamo, qualcosa di più di quello che noi ci danno da vedere. E per cui la teoria complottista è qualcosa del genere. Detto questo, che io dico sempre, la colpa è sempre nella domanda e mai nell'offerta, trovo disdicevole, ma anche rosico e ammiro chi riesce a capitalizzare queste psicosi totali. Perché noi non siamo cinici, caro Alex, esatto. Biggio, noi non siamo cinici. Intanto Carmine ci ha suggerito un libro, vogliamo... Sì, di Webb Stephen, Se l'universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? Saranno anche cazzi loro, a parte le mantidi che sono qui a farci cascare gli aerei. Sai, che fanno milioni di anni luce per venire a far cascare gli aerei e fare i dispetti, questa è una cosa... E fanno veramente... così, sai come fanno poi? Con la faccia da mantide, che poi sta cosa... Non so se conoscete, come si chiamava? Matteo Montesi, giusto? Sì, Matteo. Non so se conoscete Matteo Montesi, andatevelo a cercare su YouTube. Vabbè, oramai è diventato un personaggio, ha perso la sua naturalezza, ma questo era proprio un forgorato, insomma, faceva delle cose assolute, tant'è che c'era un altro personaggio che c'ha a che fare con la musica, che si chiamava Christian Eyes, che gli faceva praticamente i mix con tutte le bestiate che diceva questo, che era una sorta di folgorato di Gesù Cristo, quindi insomma un personaggio assolutamente, andatevelo a vedere, perché lui veramente è l'esempio di queste cose, perché mischia Gesù Cristo con le navi volanti e i cosi, no, però non le mantidi, ma sono i rettiliani. Attenzione, un attimo che mettiamo l'effetto sonoro di rettiliano. I rettiliani. Parla. Non sentiamo, insomma. Ma niente, ma dovrei anche mimare. Stavo facendo il fulmine. Anzi, il pulmine. Comunque, io tempo fa Sentivo parlare molto tempo fa, sentivo parlare ogni tanto su queste cose, sai, le scie chimiche, giravano quei documentari che ti spiegavano questi aerei senza insegne che giravano. Che poi comunque ti intrigava, cioè, cazzo. Si dice, ammazza, però questa cosa è interessante, sembrava quasi... Ci stanno le scie, vedo le scie. Poi è successo un giorno che a San Savino, nella casa mia che ho in campagna, c'era un periodo, aveva affittato un appartamento un tizio, che a un certo punto una sera, non so perché, stava a parlare con noi. Con 4-5 birre in mano. C'era lui e tre altre persone intorno. Esatto. Anche 4. Quindi eravamo tipo 4-5 persone. Nel giro di 20 minuti, 15 minuti, era rimasto lui da solo. Esatto. E continuava a parlare. Certo. E questo se ne è uscito dicendo: perché vedete, ragazzi, io fino a quel momento un po' ci credevo a questa cosa dei scie chimiche, devo dire la verità. Ci spruzzano. E noi siamo rimasti così, che senso ci spruzzano? Io già stavo vedendo un film porno, ci spruzzano. Ci spruzzano, è proprio una pioggia dorata. Esatto. Ci spruzzano perché per controllarci la mente, ci spruzzano il cadmio. E il sangue essiccato. Un po' perché il sangue essiccato. Il cadmio, un'altra cosa è il sangue essiccato. Hanno raccolto, sempre i ricercatori hanno raccolto dei famosi ricercatori, dei campioni, c'era sangue essiccato e cadmio. E caccole, quella buona. Caccole, ma questo è genio puro. Cioè, immaginate uno che deve dire: deve inventarmi una stronzata, tiriamo fuori tre cose. Allora apre il dizionario e viene fuori cadmio. Che cazzo è il cadmio? Frega un cazzo, mettiamoci dentro il cadmio. Poi il sangue si deve dire cobalto, capito? Cioè. Sì, ma in realtà secondo me, cioè, questa è la cosa, nel senso, perché cadmio e non cobalto? Con due B soprattutto, perché è inevitabile. Esatto. E comunque continuano i suggerimenti di Ron e John, loro, i padroni segreti del mondo. E poi è questo un po' il concetto, capisci? Cioè, nel senso, io mi sono reso conto che questa cosa, secondo me, chi ha iniziato un po' queste cose, secondo me un po' ci credeva, magari era pure mezzo, ma magari forse c'è anche un pizzico di fondo di verità, no, in questo, perché si parte sempre da un qualcosa che potenzialmente è vero, no, chi te lo può negare in fondo, no? Da lì in poi, secondo me, scatta il business, perché si vede che la gente va a rota con queste cose, veramente a rota. E poi mi domando sempre: chi è che deve morire dei bestemmi? Più chi fa queste cose o quelli che gli vanno dietro? Un po' tutti e due. Quelli che gli vanno dietro, l'ho detto io. Perché in realtà io, se quando senti, che ne so, in televisione lo stregone, capito, che ha, cioè, che si è fatto pagare $200,000 per fare il filtro d'amore. E in realtà io non ce l'ho con lo stregone. Cioè, nel senso, quello ci ha provato. Però se tu sti $200,000 gliel'hai dati, cioè, devi morire di bestemmia insieme a lui, insomma, diciamoci... Ti ha dato il filtro del coglione, no? Esatto. quello qualcosa l'ha ottenuto, diciamo così. E questo è un po' il discorso, insomma, che poi alla fine sta cosa si propaga e cominciano a uscire cose poi ad cazzum, cioè cominci a sentire... ma perché poi io mi domando, in realtà, Alex, tu che sei più scientifico di me, guarda, la scienza. Se scegli, sei mai stato spruzzato? Che cazzo servono? Scusa. Io me lo sono sempre chiesto. Tra l'altro, c'è una mia carissima amica che avrebbe voluto essere partecipe. Poi, quando l'ho detto che avremmo parlato delle scie chimiche e non ne saremmo stati molto, molto positivi, ha detto: declino cortesemente l'invito, ma andatevene a fare in culo. Cioè, perché lei è pro scie chimiche. Sì, io continuo a pensare che secondo me le scie chimiche sono spruzzate dai rettiliani e contengono dentro dei carboidrati, e così ci fanno ingrassare. Noi diventiamo tristi perché siamo grassi, e questa cosa è una ruota che gira. Però quindi, qui lo dico, perché, nutrizionisti. Perché dovresti fare milioni di anni luce per venirci a spruzzare? Cioè, ma è quello che non riesco a capire. Per il controllo del pianeta, così lo invadono in maniera pacifica. Ma perché... sempre su YouTube quell'altra folgorata lì dei guardiani della galassia di luce, là, come cazzo si chiamano, quella che l'impero di luce, sì, l'impero galattico di luce, che c'era sempre questa qua con la tazza con la teiera dietro bruttissima, che raccontava sta cosa che se vengono i militari da voi e vi dicono di entrare nelle basi dentro le montagne, non ci andate, che in realtà vi vogliono imprigionare per controllarvi, ma in realtà adesso presto ci sarà l'invasione e moriremo tutti. Questo era un po' il concetto. Ma allora vado dentro la base in montagna, cioè veramente almeno non mi ammazzano, insomma. Vabbè, comunque ragazzi, comunque la cosa bella è che c'è questo ottimismo di fondo comunque, cioè io credo che c'era un mio amico che quando andavo a scuola, lui avevamo proprio 13-14 anni, in pullman mi disse una volta: secondo me dopo il 2000 la grande paura cadrà, come c'è stata la fine della paura dell'anno 1000, 1000 non più 1000, ci sarà una grande ondata di positivismo. In realtà internet ha portato una grande ondata di pessimismo, cioè la gente non ci spera più, cioè è convinta che moriremo tutti e moriremo anche male, moriremo di bestemmie e di scoregge. Ma poi, cioè, se tu consideri che ci sono state quante fine del mondo sono state recentemente negli ultimi anni? Non lo so, una decina. Che alla fine non ci crede più il giorno in cui arriva la fine del mondo. No, ma va a cagare. Comunque Puccio. Puccio dice che le scie chimiche sono l'aperitivo delle sonde anali rettiliane. È il loro modo di corteggiarci. Può darsi. Però sta cosa che ti spruzzano il cadmio, a prescindere da che cosa serve, è una cosa. No, io oggi ho sentito, lo stavo guardando un po' a stracci bocconi perché non ce la faccio. Però ti spruzzano il bario. Il bario era, bravo. No, il cadmio c'era. Però c'era pure il cadmio, sì. Però è sta cosa, quella che mi sconvolgeva a me era quando ha detto alla fine, a che dici bario? Oh, ti spruzzano il bario. Ok. Check your bario. Okay. Ti spruzzano il cadmio. Ma io non so di che si tratta, se lo sai tu, vabbè, ok. Ci posso pure. Ma sangue essiccato, io a quel punto mi sono alzato e lui ha continuato a parlare da solo. Sì, però dopo, io sono rimasto lì per curiosità. Poi quando ha detto che in America ci sarebbe stata una guerra civile, che stavano ammassando barre di plastica intorno alle autostrade, qua in America, vedi, intorno alle autostrade ci sono centinaia e centinaia di barre di plastica, perché adesso la gente morirà. Io ho detto, va bene, vado a prendermi una birra. Sono d'accordo con Puccio sul fatto che in realtà tutto questo atteggiamento, tutte queste cose esistevano anche prima di internet, solo che adesso chiaramente è più facile la divulgazione e la propagazione. Però di questo una volta ne parleremo, perché magari ci facciamo proprio una puntata su internet deve morire di bestemmie, perché insomma è un pochetto sì, comunque. Vabbè, dai ragazzi, io insomma, se sì, ringraziamo Danilo che ha trovato sicuramente il video della tizia. Io non lo apro perché se lo apro qui mi scatafascia tutta la linea, soprattutto cominciamo a mortarla di bestemmie. Esatto, poi dopo. Ma guardatevela perché è veramente un personaggio, assolutamente. Insomma, vabbè, questo potremmo dire che lo mettiamo nelle note dell'episodio, ma potremmo anche non metterlo. Oppure le note dell'episodio sono essenzialmente i commenti a questa puntata. Potrebbe essere questo. Un modo, esatto. Bene, invece c'è un terzo soggetto che possiamo chiamare in causa. Che questo ti dimostra quanto. Considerate, c'è una diatriba in giro tra questo, la televisione è vero, la televisione non è vero. Però a prescindere da questa cosa qui, la cosa fantastica è che nell'era dei reality show, dove praticamente già il concetto reality show ti dice questo è uno show basato sulla realtà, sulla verità, perché è in tempo reale. Ovviamente questi reality show hanno, cioè dal Grande Fratello in poi, hanno cominciato a degenerare sempre di più, perché ognuno doveva far vedere che ce l'ha più grosso. La gente si annoia. Esatto. Se vede sempre le stesse cose la gente si annoia, quindi devono cominciare a far uscire qualcosa di diverso. Allora ci scappa la scopata, ci esatto. Scappa la l'orgia, scopata, beh, quella già subito, ci scappa l'orgia, ci scappa la cosa gay, capito? Quindi ci spruzzano pure. Alla fine si rimette le spruzzi e quindi e allora che succede? Che a un certo punto sono usciti tutta una serie dei reality show, di quelli un po' più adventure, quelli un po' più survivor. E non soltanto, ci stanno anche dei reality a forma di documentario, sempre questi qua tipo Enigmi Alieni, soltanto che raccontano le storie, che poi perché me lo racconti? Perché al finale, ok, sì, è interessante, ma alla fine che cazzo me ne frega, quando tu hai fatto 6 stagioni della famiglia che vive in Alaska, isolata dal resto del mondo, e che deve sopravvivere prendendo a capocciate l'alberi e ammazzando orsi, cioè, abbiamo capito, però dopo una volta, due volte, tre volte, però pare che in America sta cosa va proprio fantastico, perché si odiano tutti fra di loro, cioè se non si danno una carezza, se fanno un sorriso, neanche se muoiono. E per il padre il figlio è comunque un deficiente e il figlio vuole scappare perché il padre è un vecchio stronzo, insomma, fondamentalmente. E ci stanno tutte queste dinamiche in questi documentari che ti raccontano praticamente la storia di questi soggetti, di queste famiglie, di questi redneck che vivono lontano dalla civiltà, e come la famiglia che addirittura faceva il corso di sopravvivenza all'apocalisse zombie. Che era fantastico, era fantastico, cioè praticamente questi vivevano. Carmine invece ha centrato il segno con i camionisti sul ghiaccio. Ah, anche, ma ci arrivavo ai camionisti sul ghiaccio, che è pure quello. Dopo che hai visto una stagione, che poi è fantastico quello che succede, perché se voi li vedete, pure come sono girati, anche in questo caso, sono veramente buona la prima. Il camion sta per precipitare nel ghiaccio, sta per morire. Attenzione, qui ci sono morti veramente tutti e non muore mai nessuno. Infatti, ma è mai morto qualcuno? No, mai nessuno. Cioè, però sono le strade più pericolose dell'universo. Dell'universo. Beh, e ci vedono questi camion con le inquadrature con la telecamera da sotto il ghiaccio. Mi devi spiegare, Alex, come fa, insomma, fa una cosa del genere. Però il ghiaccio, insomma, resiste al passaggio di sti camion. E vabbè, pure questi. Però i più belli di tutti, e qui poi ve lascio la parola, sono quelli proprio Survivor. Che praticamente ci stanno sti tizi, ce ne stanno varie. Tipo, che ne so, la coppia. Prendono due tizi che non si sono mai visti né conosciuti, fanno una valutazione sulle loro potenzialità di sopravvivenza. Tipo, lui, ex marine degli Stati Uniti d'America, in pensione, fattore sopravvivenza, lei, 87. Lei è professoressa di una scuola pubblica casalinga a tempo perso di New York, del Bronx. Indice di sopravvivenza 91, perché lì girano anche le pistole. Esatto. Vai, vai. E allora li buttano nudi. Nudi. Nudi, certo, devono morire gonfi e nudi. Che succede? Praticamente, cioè, ecco, sto dimagrendo a vista d'occhio, e io tutto sto a vista d'occhio non lo vedo. Nell'arco di una settimana, questi devono raggiungere un punto X, sopravvivendo nudi e senza risorse. La cosa bella è che praticamente ogni inquadratura che fanno, per far vedere che sono sofferenti, che sono sofferenti, li zozzano in faccia. Cioè, sì, è vero. Non si sa per quale ragione le facce c'hanno sempre più nere. Da un minuto all'altro, un minuto all'altro, perché lì tagliano, cioè, nel senso, cioè, può essere pure passato 6 ore, voglio dire. Ma che me rappresenta, Alex, tu che sei regista, scenografo e direttore della fotografia, prima di ammazzare soprattutto, scenografo. Allora, il problema è, adesso ti dico, lo spettatore medio non sa come funziona. Quando abbiamo fatto delle riprese, una volta, una riprese di ciclismo, praticamente, in cui c'era, noi facevamo delle riprese di gente che andava in bicicletta, e noi avevamo una sorta di auto attrezzata con delle telecamere che li precedeva di circa 20 metri, 10-20 metri, e i ciclisti che parlavano, per cui tutto il video di tutta la ciclata era praticamente una camera che li riprendeva. E a un certo punto abbiamo fatto diversi numeri di questa cosa, stavamo facendo una di queste riprese dopo un anno circa che era fuori quest'opera, e arrivano dei tipi e dico: cacchio, ma ci sono delle telecamere! Sì, con cosa credi che venissero riprese? Con lo Spirito Santo. La gente non sa, cioè non si rende conto. Questo è anche giusto, perché nel linguaggio filmico uno non, cioè, si chiama sospensione dell'incredulità. A un certo punto non si ricorda più che sta guardando un film, che sta vedendo un'opera di finzione, ma sta vedendo qualcosa. Per cui l'idea che c'è qualcuno che riprende è scomparsa del tutto. Queste produzioni qua sono produzioni a bassissimo budget. Immagino che ci sia una catena della televisione, che comunque è una televisione sul canale tipo 4228, che c'ha pochi soldi. Va alla casa di produzione, che è una casa di produzione che l'Asylum li fa, cioè, sono sempre loro quelli dei Merdenado. Sì. Questi qui vanno a prendere sono tre stagisti che fanno sta roba qua. Tu c'hai la telecamera, tu inventati la storia, tu sti cazzi. In 3 giorni girano queste cose. Poi ovvio che adesso devo dirlo, perché sennò poi mi arrestano. No, non stiamo parlando male di qualcuno in particolare, però è così. Si inventano queste cose, cioè questi qui vengono rilasciati su un'isola, dopo 20 secondi hanno lo stesso trucco che rimane lo stesso per tutta la stagione, cioè lo stesso sporco. E la gente, secondo me, nel 99%, siccome la domanda ha sempre torto, non si accorge che sta guardando merda, che sta mangiando merda, per cui morta di bestemmia chi mangia merda, e chi gliele produce queste cose fa bene. Non diciamo di queste cose chi mangia merda, perché in Italia c'è gente che la apprezza, quindi... Sì, ma allora, se tu l'apprezzi, ma che apprezza davvero mangiare quella vera, attenzione. Ah, okay. Sono le leggende, sai. Sì, gente con le mani grandi, okay. Con le mani grandi, sai. Però ritorniamo un po' sempre al discorso di prima, a parte che comunque queste trasmissioni devono morire bestemmie perché sono proprio brutte, cioè nel senso neanche un po' quel minimo, come dice Alex, un po' quel minimo indispensabile, che poi in realtà è pure sconcertante questo fatto che la gente oramai si medesima, cioè concede totalmente spazio alla sospensione, no? Perché come fai a pensare che quello è veramente da solo? Innanzitutto c'è un cameraman, cioè se lo vedi c'è un cameraman. Devi partire solo sul posto. Il tecnico del suono non c'è. C'è solo il cameraman con un cazzo di microfono attaccato sulla telecamera. Comunque, se quello sta per morire per davvero, io penso che non esiste nessun contratto al mondo, no? Che metta nelle condizioni una persona che è lì presente a vedere uno che sta a morire di sanguato e non fa niente. Capito? Quindi c'è già soltanto questo che tu mi dici, se la devono cavare assolutamente da soli. Poi c'è invece un'altra di queste trasmissioni che a un certo punto fanno entrare un produttore esecutivo perché uno si è fatto male, per far vedere che in realtà che è tutto vero, capito? Cioè anche quello, il fatto di far entrare, quindi di spezzare sta barriera in qualche maniera, in realtà ti vorrebbe raccontare il contrario, come no? Basta, noi non giochiamo più qua, esatto, stavo a scherzare perché questa è una cosa vera, è fatta sul serio, capito? E vabbè, comunque devono morire di bestemmie, ma io penso, Citiamo Bear Grylls è fantastico, li ho visto mangiare di tutto, li ho visto filtrare e bere l'acqua dalla merda degli elefanti, cioè questo in campo ancora, chissà perché, insomma. Forse perché non è vero, magari. Forse perché non è vero, ma chi può dire? Ogni tanto qualcuno ci rimane secco, però, oppure è un po' come la canzone di Elio, i Mortacci, ogni tanto dicono, vabbè dai, per mantenere alta la tensione facciamo che tu sei morto. Ma cosa faccio per fare il cameriere? No, ma quello che andava a mettere le capocce dentro la bocca dei coccodrilli è morto, ma mi sa che è morto per cazzi sua, però, cioè nel senso... Sì, è morto di bestemmie. È morto di bestemmie. Penso anche, cioè voglio dire, comunque può succedere in qualsiasi situazione. È chiaro che se tu comunque finto o non finto, un po' tava e cerca, comunque voglio dire, dai, insomma, l'animale... per quanto possa essere pseudo addestrato è sempre una bestia, cioè, quindi insomma succede anche ai super professionisti, insomma anche nei circhi abbiamo visto di tanti leoni che partono a brocca e se mangiano qualcuno, insomma, e fanno anche bene. Morto le bestemmie ai circhi con animali, però ecco, cioè, a parte noi in Italia che comunque noi compriamo a pacchetto perché ormai i canali televisivi devono trasmettere 24 ore su 24, quindi comprano indiscriminatamente qualsiasi cosa, un po' perché dicono questa serie è bella, sta cosa bella devi assartre 10 merde, però tutto sommato le televisioni italiane dico va bene, ma mi servono qualche modo, mi serve, comunque la usano, esatto, la usano, infatti poi alla fine a ciclo continuo la rimandano sempre, ma in America che le producono queste cose, cioè vuol dire che veramente c'è gente che se le guarda, cioè secondo me sì, ma secondo me anche c'è il mercato, appunto. Sanno benissimo che magari nel pacchetto di roba una serie che ti costa $25 poi riesci a rivenderla a 26 e quell'unico dollaro di differenza sui grandi numeri, nei grandi mercati può funzionare. Cioè l'ho visto il mercato della contrattazioni dei diritti televisivi, delle properties. Sì, in effetti, anche se ci guadagni poco, ma vai sui grandi numeri, è ovvio che... Intanto diciamo a Carmine che no, non abbiamo mai visto Sepolti dai rifiuti. Ah, sì! Come noi no? Abbiamo quelle sì, là dei cosi, certo. Quelle degli accumulatori. Gli accumulatori compulsivi. Quella che ha trovato il gatto morto. Sì. Cioè, sì, no, vabbè, però pure di quella bisognerebbe parlarne successivamente. Sennò qui si fa veramente il decalogo di tutto quello che trasmettono quei tre canali lì, è la fine, insomma. Dato che suppongo insomma che ancora i nostri due ascoltatori ci stanno, se ci suggeriscono secondo quali di queste tre tipologie anche documentaristiche che vediamo in televisione insomma sono quelli che devono proprio morire di bestemmie a priori, insomma in maniera più assoluta. Io ce l'ho la mia idea, tu Marco te la sei fatta? Io sì, beh, se la battono tra gli sci chimicisti e gli ufisti, però più gli sci chimicisti, perché io l'idea che c'è una razza superiore che se fa milioni di anni luce per venire a conquistare noi che non siamo un cazzo di niente e ci spruzza, a me mi fa ridere, cioè io non riesco a cavacinarmi. Sei una razza superiore, ma che, cioè, ho capito, vieni qua e bombarda, vieni qua e bombarda, cioè, no, sì. Cioè, quello che penso anch'io. Tu Alex? Guarda, sai che sono veramente combattuto. Questi qua degli alieni mi fanno molte sorridere. Trovo molto più disgustosi quelli che ci fanno vedere fino a che punto può scendere in basso un essere umano. Io posso capire che i vari redneck sono quelli che magari appunto continui a fare sesso tra consanguinei, prima o poi c'è una deriva genetica e ti rincoglionisci. E questa cosa qua, ripeto, devo dire che mi disturba, ecco, devo dire la verità, mi disturba. Mentre molto gli alieni, sci chimici, vabbè, li guardo in maniera, come dici, ci rido sopra, perché mi sembrano delle immense minchiate, e trovo terrificante quando c'è qualcuno dal vivo che me la racconta come se fosse la grande verità e come se io fossi offuscato. Probabilmente anche vero, però a volte mi sembrano molto più offuscati loro, perché seguono altri leader che... questa è la cosa sconvolgente, che sei te che sei stupido, cioè. Credo. Cioè, non è che... Allora, ipotizziamo il fatto che tutto possa essere vero, però non mi passare da una verità assoluta a un'altra, perché voglio dire, quello non è un modo per dire a me che io sono ottuso e tu hai trovato la verità, no? Cioè, è più il contrario, sei tu che te sei rinchiuso dentro una tua nuova verità che alla fine, voglio dire, un po' una cazzata. Ma poi se è una cazzata o no, a me mi fanno ridere, quindi per me devono morire bestemmie, cioè, nel senso. Questo, scusa Alex, non interrompo. No, ma vai tranquillo, ci ripeto, su questa cosa qua io sono anche una persona che ha veramente poca pazienza, devo essere sincero. Dopo il secondo post su Facebook, una persona mi cita ste cose, la nascondo. Infatti io su 500 amici credo che ne segua tipo 20. La maggior parte li ho cancellati, li ho oscurati. E in televisione appena arriva una roba del genere, no, perché io in televisione non riesco a guardare sta roba qua. Cioè, o guardo una partita di calcio, oppure mi sto guardando qualcos'altro che ho registrato, oppure mi sto guardando un telefilm sul computer. Non giuro, tutti questi canali qui che ci sono, sia io me li guardo sul digitale terrestre. Cioè, se lo guardi da solo, sono d'accordo con te. A parte che io se lo guardi da solo, è pericoloso. Esatto, è qualcosa che non va. Sei triste, devi morire bestemmie. Ma se li guardi in compagnia, cioè, non puoi non guardarli, perché cioè, io e Marco certe volte siamo veramente con le lacrime, ma proprio con le lacrime, perché sono delle cose che per noi sono talmente assurde, ma anche il modo in cui te le presentano che è veramente fuori di testa, capisci? Cioè, è veramente fuori dal mondo, perché questi veramente ti dimostrano, cioè, ecco, abbiamo dimostrato, e ci credono. Una volta stavano a cercare il Bigfoot. Cioè, ecco, solo gli americani possono avere il Bigfoot. Che cazzo vuol dire? C'è proprio una cagata. Cioè, il piedone, ma sono americani, piedone, sono proprio gente brutta. Dici no, perché qui un guardiacaccia, insomma, di origine indiana l'ha visto. Andiamolo a trovare. Ciao guardiacaccia di origine indiana, tu hai visto il Bigfoot? Sì, abbiamo dimostrato chiaramente che il Bigfoot... Non so se vi è un Bigfoot, però era alto, era peloso, allora è Bigfoot. Esatto. Comunque per me, se escludiamo quelli che abbiamo un po' tirato fuori da questo episodio, che sono quelli dei fantasmi, perché pure quelli sono forti, quelli dei fantasmi, perché non so se avete visto il trailer che avevamo fatto su YouTube di Morti di Bestemmie. Che secondo me è rappresentativo, insomma, quella cazzatina che poi Alex ha montato è rappresentativo, perché in realtà quelle trasmissioni sono fatte veramente così. Cioè, è una telecamera, quattro cristiani e una luce verde per simulare l'infrarosso, che chiaramente non è, perché è una luce verde, si vede, è una luce verde. E tutti che si girano, ecco, l'hai visto, l'hai sentito, ecco, guarda, ecco lì, e nessuno vede niente, chiaramente, la telecamera non riesce a guardare niente. E questo è proprio il presupposto con il quale, niente, noi andiamo avanti, insomma, perché questo è quanto, insomma. E io, ecco, se escludiamo questi qua dei fantasmi... Non lo so, guarda, gli UFO e gli sci chimici per me fanno parte della mitologia. Io ammazzo un po' più delle bestemmie i redneck, perché è proprio una cultura americana che non solo non comprendo, ma che schifo anche un pochetto, perché c'era addirittura sto programma dove facevano vedere che sparavano ai cani da prateria, lì come si chiamano, quei cani selvati. Cioè, ma una cosa terribile, perché questi da lontano, questi fuggiosi, erano sti cani che esplodevano, che sparavano con i proiettili a capito, quelli esplodenti, no? Roba, cioè, una roba, del dum-dum, no? Una roba terribile, cioè, veramente non capivo. Eppure, capito, sempre fanatici di armi che hanno sti pistoloni, sti fuciloni. Ecco, quello per me è più roba da morire. Carmine Puccio, peraltro, per il tema, si chiede: sì, ma i Marò? quello è un altro discorso. Beh, effettivamente i Marò sono una sorta di scie chimiche nostrane, cioè le abbiamo inventati noi i Marò, non è che appunto le abbiamo importati perché ci avanzavano dei soldi e ci costano pure. Che poi voi ricordate, perché questo è un paese che improvvisamente ha scoperto il patriottismo. Non sa manco che cos'è, non l'ha mai saputo storicamente. E continuo a non saperlo. Perché io continuo, l'ho già scritto su Facebook una volta e lo voglio ridire qui, i morti di bestemmia, dato che così muoio di bestemmia anch'io. Quando fu abbattuto Cocciolone nella guerra del Golfo, so se voi ricordate, no? Sì. Cioè, nel senso, comunque. Sto coglione, è cascato, siamo andati a fare la figura di merda. Sti due che hanno sparato e ammazzato qualcuno, così, poi hanno fatto bene, sicuramente non hanno fatto bene. Tutto il paese si insorge perché adesso 4 o 5 stronzoni fanno propaganda politica su sta cosa, capito? Che ci costano comunque a noi sti soldi, perché poi sì, comunque vuoi o non vuoi hanno ammazzato dei cristiani. Questi sono dei santi, il Cocciolone era un coglione, capito? Cioè questa è l'Italia, capito, che deve morire bestemmia. Insomma, questo ho espresso la mia opinione, poi ognuno la pensa come vuole. Sei veramente un grande, perché sei capace ho detto di morire di bestemmia agli americani, tu agli italiani. Mi piace questo podcast, non si salverà più nessuno, anche i cinesi, per questo. In questa puntata si salvano soltanto i bigi. Che poi comunque posso dire che c'era quel fantastico meme che c'è stato su Facebook di Papa Wojtyla che tocca, cioè che dà un buffetto a Madre Teresa, no? E praticamente la scritta che c'è li mortacci tu, ce li portasti ridacci Marò. Carmine Tuccio Console ci dice una cosa di che penso anche io. A me fa incazzare quando ci hanno tagliato la funivia del Cernista e adesso esatto, si è incazzato. Esatto. Vabbè, no, io lì poi ci ho fatto. Non volevo poi entrare, perché dopo, se entriamo in questo discorso, dopo diventa una trasmissione politica, però. Che già siamo sul libro nero dell'NSA, adesso così ci vengono a prendere. Esatto, ma devono morire. All'Akbar! Esatto, per un cazzo. Devono morire e bestemmie pure loro. Comunque, vabbè, questo è quanto. Quindi io peggio, insomma, vedo più peggio quell'altro, penso. No? Sì, Redneck, che va bene tutto, però. No, non va bene. Bene, a questo punto io direi che a questo punto passiamo alla rubrica, alla nostra storica rubrica ormai, anche se è la seconda puntata, che è quello del sangue. Anche no, dobbiamo proprio, ma dai. Eh sì, dai. Allora, c'è qualcuno sul gruppo, anzi sulla pagina Facebook di Morti di Bestemmie, che insomma ci fa molto piacere. Che è molto movimentata, che diciamo. Insomma, ogni tanto qualcuno, perché sta cosa dei morti dei bestemmie piace alla gente, insomma è un po' come, è vero che non abbiamo mai bestemmiato veramente. Insomma, è diciamo più l'implicazione no, è perché il morto dei bestemmie non metaforica, è metaforica, è la trasmissione delle bestemmie, è di quelli che devono morire bestemmie, cioè bestemmie è però tutto, se il pubblico vuole che iniziamo a bestemmiare per 45 minuti di seguito, scriva, possiamo anche inventare, però dobbiamo essere qualcosa. Pagati allora, a questo punto ci devo pagare, allora, se ci fate una donazione di 50 euro noi bestemmiamo di più. Dai. Comunque, cioè, questa cosa, qualcuno, non ricordo chi, ma ha linkato questo fantastico articolo. Una persona che deve morire di bestemmia anche lui, esatto. A questo punto, giustamente. Che è una stronzata di lercio, cioè, nel senso, diciamolo subito, perché comunque. No, cioè, non però vorremmo che qualcuno ci credesse davvero. però l'idea ci ha fatto veramente ridere. Avremmo dovuto cercare una leggenda metropolitana reale, come si fa sempre nel Il sangue del tapiro. Si fa sempre, ancora. Però, ce l'hanno regalato questa cosa e non come sfruttarla. Perché no? Insomma, questo pseudo finto articolo di Lercio che dice: Livornese produce elettricità dalle bestemmie, Toscana raggiunge indipendenza energetica. In effetti devo dirlo che siccome siamo un popolo molto unito, abbiamo tante grandi caratteristiche, cioè in Alaska, cioè no, soprattutto nel sud dell'America ci sono i redneck, noi abbiamo i toscani, effettivamente a bestemmiare sono bravi, cioè io mi ricordo che avevo un compagno dell'università toscano che quando bestemmiava, cioè nel senso tirava fuori delle perle di letteratura, cioè dalla poesia haiku a sonetti in rima, cioè io ero lì estasiato da tutto quanto, perché era molto divertente ed era molto creativa la cosa. Peggio dei trentini? No, i toscani sono peggio. Non so. Carmine, i toscani lo sai che c'hanno i toscani, c'hanno avuto il rinascimento. Questo li ha aiutati tantissimo, perché so veramente, io c'avevo, hanno la padronanza. Il pasticciere toscano dal quale mi rifornivo quando c'avevo la ludoteca. che faceva veramente era letteratura, cioè non era più una bestemmia. Cioè, una volta tirato fuori una bestemmia che mi sono sentito in colpa io di averla sentita, cioè proprio mi sono sentito improvvisamente cristiano e penitente per averla sentita, una cosa veramente indegna, cioè, una cosa, però cioè, sarà durata tre minuti di bestemmia, cioè una bestemmia sola durata 3 minuti, quindi voi immaginate che architettura, che costrutto, insomma. Comunque, che dice questo? Niente, che praticamente questo macchinario che si chiama elettrobestemmiovoro che praticamente in particolari eventi come il Family Day ha toccato dei picchi energetici non indifferenti, insomma. Complimenti per questo. Anche il Veneto dice che ha interesse per l'invenzione, giustamente, perché pure nei Veneti. Il Vaticano, nonostante le recenti aperture di Papa Francesco, ha manifestato invece qualche perplessità rispetto a questo nuovo rivoluzionario modo di produrre energia. Ma per superare le prevedibili perplessità delle gerarchie cattoliche sono in corso negoziati volti a garantire un introito fisso alla Chiesa, destinando l'8 per mille dell'energia prodotta dalle sacre bestemmie. Ma che se mangia pure questo? Scusa. Vabbè, io direi che questa bellissima Alex, se vuoi commentare questa fantastica notizia. No, beh, in realtà se si riuscissero a trovare dei modi creativi di produrre energia, noi italiani saremmo anche all'avanguardia, perché siamo comunque delle persone creative che si inventano dei modi creativi per sopravvivere, la famosa arte dell'arrangiarsi, per cui mi piace l'idea. Il problema è capire se questo attrezzo, questo meccanismo che produce elettricità dalle bestemmie funziona soltanto con il dio dei cristiani. Se ci sono altri dei, cosa fa? Cioè, nel senso, tu vai in un posto dove c'è viene venerato un altro dio, un altro insieme di dei, cosa succede? Cioè, non funziona. Io penso che non funzioni perché è la foga dell'imprecazione verso la divinità in cui tu dovresti credere, perché tu ci credi e allora lo imprechi maledicendolo per qualcosa che ti è successo. Se tu non ci credi, la veemenza non c'è, quindi secondo me non si produce energia. Ho capito, potrebbe, perfetto. Potremmo essere noi a dare energia a tutto il mondo, volendo. Potremmo renderci. Sì, anche perché poi la bestemmia è una cosa comunque tipicamente italiana, cioè nel senso di fatto. Sì, esistono le imprecazioni, ma la bestemmia così come la concepiamo noi nelle altre lingue fondamentalmente non esiste, neanche in inglese, perché non esiste. Beh no, goddamn c'è. Sì. Vabbè, sì, però è sempre diverso da come la intendiamo noi. È vero che noi però non è una blasfemia. Da noi ce l'avamo posto. Sì, è più che Dio lo danni. Cosa del genere, cioè più non è un'imprecazione contro. Okay. Da noi ce l'avamo posto. C'è il Papa. In casa. Cioè, per cui quello, nel senso, è un po' come dire. Qui proprio è nata. Il cristianesimo fondamentalmente è nato in Israele, ma è diventato quello che è diventato qui. In Italia, nella penisola italica, per cui cioè, nel senso, fondamentalmente ci sta che abbiamo molta più c'è da molto più tempo qui, per cui abbiamo anche raggiunto quella maturità tale per cui possiamo anche permetterci di non so come finire la frase senza diventare blasfemo io a mia volta, vabbè, insomma, avete capito però. Vabbè, allora, sì, dai. Comunque mi do questi qua dell'Ercio, perché io so e vi assicuro che so che deve morire bestemmie anche lui, che c'è una persona che inizialmente li prendeva sul serio gli articoli dell'Ercio. E penso che non era neanche un caso unico. Cioè. No, un sacco di gente pensa che siano vere. Ancora oggi, cioè, quindi, sai, all'inizio pure già pure. Di meno, perché hanno sbaracato anche loro. Hanno capito, insomma, sì, esatto. Va bene, allora, rubrica successiva. Vabbè, dai, tanto faccio partire il loop, vai. Ok, allora, ridateci il tempo perduto. Questa chi l'ha messa in scaletta? L'ho messa io in scaletta. Perché io non l'ho visto. L'ho visto io, mi sono capitato perché un giorno stavo a casa, mi annoiavo e c'era il cerchio Netflix. Sono andato nella categoria fantascienza, perché voi vedete che noi vi consigliamo, insomma, di vedere le cose, anche quando queste cose, cioè mica vi possiamo dire sempre di guardare Sharknado, ragazzi, c'è anche qualcosa di Sharknado fa schifo, ma fa ridere. Esatto, questo invece non fa né schifo, cioè fa schifo. Questo ma non fa ridere perché fa schifo. Perché fa schifo. Che è 2047, Scythe of Death. Che bellissimo. Che è un film che sta su Netflix. Diciamo che Netflix c'ha un catalogo a livello cinematografico un po' de merda sulla roba di fantascienza. Però, vabbè, insomma, mi accontento perché sto vedendo tante belle serie. La cosa fantastica è che questo film del 2014, di ben 89 minuti, c'ha una cosa come 8.556 recensioni. Tutte negative. Non lo so. Ma e no. Beh, c'ha 1.5 su qua, non so, forse su 10. Esatto. Quindi. Ma io lo sapevo, lo so visto uguale, lo so visto uguale. Non lo so. Qui veramente ridatemi il tempo che ho perso. Però, dato che io sono una persona che richiede la collaborazione e la solidarietà di tutti, dovete perdere tutti quanti lo stesso tempo che ho perso io per vedere questo film. Me lo so visto tutto poi. Posso aiutarti per far capire anche comunque il peso del film, il carisma del film e chi sono gli attori? Vai, vai. Perché qui c'è da scendere proprio le lacrime di bestemmie. Perché c'è Benjamin Stender, che non sappiamo che cazzo sia, è per questo, per un motivo, dovrebbe essere il protagonista. Ma poi c'è Danny Glover, ce l'ede per essere il Roger Martav di Arma Letame. Sono troppo vecchio per queste stronzate. Esatto. Daryl Hannah, che è la sirena di Splash, di Ho Fatto Splash, di Splash, non so, è una sirena Manhattan, scusate. Ed è anche la replicante Pris. Soprattutto la replicante Ed è anche quella mocassino del cazzo con l'occhio bendato di Kill Bill, all'altro. Poi c'è Kai Portman, che probabilmente sarà il cugino di Natalie Portman, che sarà stato infilato dentro. Mario Opinato, che mi sembra uno tipo Ennio Agno, sai, questi qui. Michael Madsen, ragazzi, che è comunque uno dei film feticcio, uno degli attori feticcio di Quentin Tarantino, che abbiamo visto ultimamente anche in The Hateful Eight. Neva Leoni, che è un'altra infiltrata. Rutger Hauer, signori, Rutger Hauer, accidenti. E poi Tipo Di Martin, che è uno degli altri, insomma, buttato lì a casato. Questo è triste, perché insomma ci sono anche dei discreti attori che devono comunque pagare il mutuo. Vabbè, ma cioè, siamo arrivati a fa 2047. No, allora, diciamo subito una cosa. No, perché è una cosa importante. La sinossi di questo film è veramente fondamentale. Ora, la sinossi di questo film è una riga e mezza. Ma in realtà, secondo me, è il senso del film, è tutto lì. Perché nel 2047 un agente dei ribelli, viene mandato in missione a raccogliere prove incriminanti per il governo confederato centrale, giusto? Non quello periferico, quello centrale. Cioè, è generico anche nella sua descrizione il film. Cioè, questo film è suspense, inquietante, violento. Che, insomma, cioè, ci avete presente i film di Uwe Boll, quelli fatti con 10 euro? Cioè, è così. A Uwe Boll, insomma, fate meglio. Quindi tu, se volessi far morire qualcuno di bestemmie, glielo faresti vedere? Diciamo che se ti devo fare un dispetto e ti voglio che muori di bestemmie, devi guardare sto film. Però secondo me va visto comunque, perché io... Ma non da soli. Sempre non da soli. Io purtroppo l'ho visto da solo, mi sono ammazzato di bestemmie da solo. Però io penso sempre, c'ho questa idea mia, che le cose brutte vanno sempre viste. Vanno viste perché secondo me le cose brutte ti aiutano ad apprezzare la vita, ad apprezzare le cose belle. Continuo a ripetere, però certe cose ha senso vederle in compagnia con una birra o uno spinello. Senza questi due, cioè senza la birra, lo spinello e gli amici, certe cose non si possono guardare. Cioè, nel senso, la vita è troppo breve per vedere cose brutte, dai. No, ma non lo so, secondo me le cose veramente sono d'accordo, è vero anche quello che dici tu, però è vero pure che comunque, ribadisco, la bruttezza aiuta ad apprezzare la bellezza, cioè, perché tante volte diciamo la nostra vita, che brutta che è la vita, come è brutta la vita, guardate sto film e poi vedi che la vita improvvisamente ti sorride. Regia di Alessandro Capone. È italiano il film, italiano, secondo me è italiano. Mi sa che il film è un film indipendente italiano, ma ragazzi, cioè, voi non potete capire quanto è brutto sto film, cioè come è girato brutto, cioè proprio è... Cioè Rutger Hauer, capito, da ho visto tante cose con questi miei occhi, che non era proprio così, no, però che Alessandro Capone mi ha fatto pasta a me. E l'ho visto ancora di più quindi con questi miei occhi. È una scelta sua, perché ricordatevi sempre che alla fine c'è star muto, il muto colpisce ancora. E niente, ci tenevo a farvi insomma conoscere questo film. Non so se Carmine e gli altri insomma avranno poi intenzione di vederlo. No, la cosa bella è che Lara su IMDb è un film italiano comunque, cioè, assolutamente. Il sito ufficiale è sulla pagina Facebook, neanche su un sito suo. Ma la cosa interessante è che la review su IMDb più votata dagli utenti è quella che dà una stellina su 10 e il titolo è Beyond Tedious, cioè è oltre la noia. Oltre la noia, bellissimo. E qual è a questo punto sono curioso di vederlo. No, no, ma vabbè, io ribadisco, secondo me è sempre studio antropologico, ricordatevi questo, che ogni cosa è una forma di studio antropologico. Sempre comunque conoscenza. Conoscenza, esatto. Io mi sono perso la scaletta nel frattempo. Ecco, la scaletta non c'è un cazzo. Adesso possiamo anche salutare. No, vabbè, c'è la posta. Posta. Arrivi. C'è la supposta, no, amico, ma c'è troppa roba. Dobbiamo leggere tutta sta roba qui. Che sono quattro cose. No, ma sono quattro vabbè, cose, dai. Ma che ci vuole? Vai con la posta. L'angolo della supposta. Vai Marco. Dunque, niente, mi piace leggere dal suo telefono nuovo. Il mio nuovo device. Ma fai anche pubblicità così. Tra l'altro ci danno la lira, quindi non la faccio. Allora, non la faccio. È cinese. È cinese, però funziona, mortacci loro. Allora, Geggio von Matterhorn. Von Matterhorn. Da Springer. Esprimo la mia opinione non richiesta. Secondo me il film è grosso modo riuscito. Stiamo parlando di Star Wars, perché la prima puntata, certo. Ricordate che J.J. Abrams deve morire. Tenete conto che avrebbe dovuto far contenti una marea di target differenti. Questo è sempre perché la merda è tanta e bisogna accontentarla tutti, dai bambini ai fan più sfegatati, e più o meno ci è riuscito. Ovviamente non è perfetto e ha parecchi scivoloni, ma non dimentichiamo quanti ce ne sono nei film precedenti, e non parlo solo della seconda trilogia, che è uno scivolone di per sé. Questo l'ho aggiunto io. Il problema principale è che ora non devono assolutamente sbagliare episodio 8, ma tanto sarà uguale. Cioè... Infatti, comunque io e Danilo Giardino già non siamo d'accordo con quello che dici, caro amico Geggio. Oppure so cazzi, ma penso che questo Geggio sia più sul io spero che me la cavo, cioè, speriamo che l'8 sia meglio. Riguardo al podcast, grandi tutti come al solito. Postile, in una vecchia puntata di Mottimania parlavate di una prima stesura della sceneggiatura di episodio 7. Sì, ma quella era praticamente una cazzata, ma lo dicevamo pure noi. Cioè, dove il film iniziava con una spada laser che cadeva dal cielo, la possibile spada di Luke, che veniva ritrovata da qualcuno secondo voi. O secondo noi giocherà un ruolo nel prossimo film. Sì, ma sta spada è sempre lì che gira prima o poi. Sì, ma ritorniamo, come il cetriolo, ma soprattutto ritorniamo a quello che continuiamo a dire con Alex costantemente, che un film, una storia può essere anche una trilogia, ma tu un film me lo inizi e me lo chiudi, poi dopo magari come posso dire, ci sarà un proseguo su come, però, tanto per uccidere i fratelli Wachowski che ce l'hanno suggerito. Mm-hmm. E dopo lo leggeremo il messaggio, non come hanno fatto tra Matrix 2 e Matrix 3 che finiva col continua, che veramente le morte dei bestemmi. Iva Spagnoli de faccia bocco, faccio bocchi come si dice in siciliano. Ivan Spagnoli così si legge in siciliano. Iva Spagnoli, bella puntata, ho passato tutti gli incartamenti all'avvocato Taormina, responsabile sulle tutele legali di J.J. Abrams per l'Italia, che provvederà a fare denunzia nei vostri. Ma noi ci fa una zagana, lo sapete, insomma. Sapete che dovete sempre chiamare Stefano Gualdi, Stefano, esatto. Pizzi e Stefano Raccuglio, quindi prendetela con voi. Federica Prezioso, con la quale abbiamo iniziato una corrispondenza, siamo diventati amici di penna. Se Harrison Ford fa pena, ho fatto bene. Federica, facci sapere se sei figa, eh? Sicuramente, sicuramente di sì, è ovvio. Se Harrison Ford fa pena, ho fatto bene a non vedere Star Wars. Grazie per la recensione. Ma vedilo anche, cioè potresti anche vederlo, così ti rendi conto, insomma, perché mai fidarti delle recensioni, infatti, soprattutto le nostre. Esatto. Giovanni Tosto, anche senza minacciare Macumbe, le stelle sono tante milioni di milioni, ve le siete meritate per aver ideato questo format. Visto che insomma, ammetticele però, visto che nel primo episodio che ne vado a vedere sul prossimo candidato a morire di bestemmi, ve ne suggerisco addirittura due: i fratelli Wachowski, l'abbiamo detto, o meglio fratelli e sorella, ma fratelli va bene lo stesso, per tutto quello che hanno fatto dopo il primo Matrix. Sono abbastanza d'accordo. Domanda, a voi Claudata la sei piaciuto? A me non tanto, ni. Ma non mi ha fatto schifo, devo dire. Però non mi ha neanche detto. Esatto, è un film che ho detto che ho visto, ho detto non mi sta facendo schifo. Certo, no. Che cazzo, 3 ore. Il classico film over pretenzioso, diciamo così, cioè nel senso che non riesce a essere quello che vuole, però a me comunque non mi ha fatto schifo, cioè non ho detto proprio mazza che merda, insomma. E devo dire che Sense8 a me non mi dispiace, anche se l'abbiamo lasciato tipo a metà praticamente. No, ma ora ricominciamo. Ora ricominciamo. Non è che è brutto. Perché il fatto che Marco è stato male ha condizionato il nostro. Ma qualcuno lo sciopero di sceneggiatore, esatto. Carmine Buccio Console, che sta qui in diretta, forse ascoltando, devo rompere. No, se n'è andato da un po'. Si è rotto le palle, giustamente. Ha fatto bene, Carmine. Lo farei, l'avrei fatto anche io. La sua scusa è stata: ragazzi, scappo o mia moglie chiede il divorzio. Dovevi divorziare, cioè. Esatto. Certo. Spero che si sia fatto un orge. Devo rompere i coglioni perché sono un precisino della fungia. La spada che Rey trova da mascherata è quella che Luke perde su Cloud City. Ancora? Quando gli cionca la mano. Ma infatti è quella di Cat, quella del padre. Quella stava dire la stessa cosa. Quella verde di Luke l'ha costruita dopo. Infatti basta, abbiamo guarita questa cosa. Dalla mail, sono il primo Logan Singer, grazie. Ciao Logan. Ti salutiamo. Ivan Spagnoli, che poi non è stato il primo, ma in realtà è stato Ivan il primo, che ci scrive: oggetto porco 2, porco 3, porco 4. Però perlomeno ha giustificato l'esistenza di una mail. Su iTunes, che te lo dica fare? Oh, fa ridere, è sguardo. Non diciamo chi è. Possiamo anche non leggerlo. Da Meshua, da leggeva quello di Meshua. Che ve lo dica fare due? Fa ridere, se non vi fa ridere, potreste essere i soggetti adatti per la prossima puntata. Quindi sappiate. Secondo me che sei collegato col primo. Potrebbe. No, però vi giuro, non ho idea di chi sia sta Meshua o sto Meshua. E mi viene in mente uno che lo pronuncia così, Meshua. Oh, ci vediamo, Meshua. Mi piace. Vabbè, ma sarciccio. Non vogliamo chiudere la puntata con i sondaggi? Cioè, con quei sondaggi che dicevo. No, innanzitutto c'erano delle cose veloci perché non ho potuto aggiungere. Però c'era innanzitutto il reboot di Jumanji. Parliamone due secondi del reboot di Jumanji. Ma che vuoi parlare? No, tiriamo un porco e cambiamo. Sì, dai. Cioè. Però c'è anche il reboot di MacGyver. Sti cazzi. Allora, posso dirvi la verità? Sono troppo vecchio. Jumanji e MacGyver sono cose degli anni 90. Io sono un ragazzo degli anni 80, di queste cose io non me ne frega niente. Non è che mi rovina niente. Cioè, secondo me Jumanji non era un gran film neanche quando è uscito, se non per gli effetti speciali che oggi fanno cagare. MacGyver non mi ha mai preso più di tanto, devo dire sì, la verità. Sì, comunque devono morire dei bestie. Ma perché fare una cosa che tanto sai che fare era una merda? Se non mi è piaciuto allora, come fa a piacere oggi? Comunque, vabbè, moriranno di bestemmie nel botteghino. E poi c'è l'ultima cosa che aveva messo Pizzico, poi si è scordato, il commento di Simon Pegg al trailer di Star Trek. Ah, sì. Ma parliamone due secondi. Sì. Perché voi sapete che chi ha visto il trailer del nuovo film di Star Trek, tutti. Mamma mia, che merda. Esatto, qui veramente tutti hanno detto è proprio una merda. Cioè, nel senso, ma anche gente che non voleva dirlo, ma pure Simon Pegg stesso ha detto che è una merda. Sì, una merda. Però è solo il trailer. Però figuratevi come film. Esatto, che di solito il trailer è la parte più bella, insomma, e ha detto: no, il trailer è brutto, ma è soltanto un trailer. Cioè, nel senso, secondo me gli è sfuggita di mano sta cosa. Cioè, qualcuno gli ha detto: fai sto trailer. Fallo Tamarro, gli ha detto JJ da un'altra parte, gli ha telefonato, gli ha detto no, quella direttamente il regista, no, che è Tamarro de suo, insomma, non c'è bisogno che gliele dici. Chi è? Quello di Fast and Furious. Sì, vabbè, appunto, vedi, tutto torna. Va bene, ragazzi. Questa puntata è durata un sacco e mezzo. Era 80 minuti, dai, tutto sommato. Alla fine, insomma, come quell'altra. Sì, ma io direi un po' di più, Vabbè, chi se ne fotte, oh. Anche, sì. Io direi che dalla prossima puntata mettiamo questa cosa dei sondaggi. Sì, che sondaggi vuoi fare? No, non i nostri sondaggi, i sondaggi che volevi aggiungere tu. Quei sondaggi Del sondaggi giornale. Libero. Sì. Bene, dai, possiamo mettere la prossima puntata. Uno solo. Un sondaggio con cari teleascoltatori, fatevi una domanda, datevi una risposta. Così. No, perché noi abbiamo visto i sondaggi di Libero. Libero il giornale, insomma. Giornale Libero è la parola grossa, il giornale. Ve ne cito solo uno: avete mai toccato il sedere di una vostra collaboratrice sul lavoro? Ma hanno risposto a sto sondaggio? Chi può dirlo? Non lo so, non l'ho visto. Beh, però adesso voglio sentire le risposte di voi due. Clicca. Allora, clicchiamo. Ma com'è la domanda? Che avete mai toccato il sedere? Di una vostra collega. Dice? Collega, esatto. No, collega no. Però cioè, vi piace più la tua moglie? Non l'hai toccata, scusami. Vabbè, ma non è mia, cioè, che vuol dire? Moglie. Tua collega, però è anche la tua collega, se ripeti, stando così io ho toccato il culo a una mia collaboratrice. Vabbè, però secondo me non è quello. Anzi, a due. Non è quello. Penso che tutto ufficio a toccare il tuo. Penso che l'ultima cosa che faccio prima di assumere le mie colleghe, li tocco il culo. Esatto. Se non dicono niente, sono assunto. Esatto, bravo. Un metodo anche quello, se poi le posso toccare il culo, sì, allora ok, assunto. Ok, vedo che lei è una persona molto spigliata e assunta. Esatto. Vediamo se c'è. No, c'è solo scritto sì o no, però non dicevo una e si chiamava assunta. Però c'è un tizio che commenta l'articolo e non solo. Caro il culo. Ah, eppure non solo, perché la gente si è in macismo. Una certa Elisabetta dice: ma che cavolo di sondaggio, cretino e irrispettoso. Giusto, perché vedi c'è sempre la donna bigotta. Ma andate in culo, gli rispondo. Vabbè, dai. Allora, chiudiamo la puntata. Voi che state in diretta, oramai penso nessuno, però non fa niente, non lo sapete. Ma subito dopo i titoli di coda, diciamo così, della sigla di coda, c'è una gag simpaticissima. No, c'è un'intervista. Un'intervista seria. Una persona che ho conosciuto che ha avuto un'esperienza molto particolare e voleva condividerla con noi. Ovviamente è un'intervista. Molto reality, come quello dicevamo prima. Di moda, molto esatto. Sangue e merda, come dice. Sangue e merda, esatto. E soprattutto dei contenuti molto forti, ma veramente contenuti molto forti. Quindi l'ascoltatela, insomma, preparati. Quindi se siete delle femminucce che si... Sì, oppure siete dei minorenni in particolare. Non l'ascoltate. Però, insomma, anche questo fa parte del nostro mestiere, no? Che è quello raccontare di... Raccontare la verità. Perché questa è verità. Esatto. Assolutamente verità. Questa più di tante altre. E è una questione, insomma, che poi tra l'altro noi non l'abbiamo contemplata nell'episodio, parlando, insomma, di complottismi, scii chimici e roba del genere. Però, insomma, è un tema del quale prima o poi dovremo parlare anche. Bene, detto questo, io saluto l'amico che se la ride, Alex Biggio. Oh, ciao, park dear a tutti, park dear. No, dai. Ho parcheggiato qui. Ok, parcheggia caro, parcheggia in inglese, parcheggia caro. Okay. Vabbè, stiamo proprio al limite qua. Saluto l'amico Marco Biggio. Sì, grazie di tutti, cuore a tutti, dal vostro Marco Biggio. E saluto anche da me Simone Biggio e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti cari amici di Morti di Bestemmie, siamo qua con Gaetana che ci deve raccontare la sua esperienza, ci deve mettere a corrente di quello che le è successo, ma lascerò che sia lei a parlare. Ciao Gaetana. Ciao. Gaetana, raccontaci. Insomma, ve devo raccontare un po' di cose. Allora, cioè io so vegana, cioè 10 anni fa ho deciso di diventare vegetariana perché insomma mi ero affezionata alle mucche e non mi piaceva il fatto che ammazzavano le mucche. E beh, un po' sono stata vegetariana e stavo abbastanza bene. E poi 4 anni fa ho conosciuto un amico mio che mi ha dato un po' di indicazioni, mi ha spiegato un po' di cose e sono diventata vegana. Ci ho messo un po' di anni, un anno o due. Prima ho torto il latte, poi i formaggi, poi tutte le cose. Adesso mangio, sono vegana al 100%. Perfetto. Gaetana la vegana, l'hai detto apposta o...? No, è stata pure una coincidenza, succede. Perfetto, allora raccontaci Gaetana, cos'è che ti è successo? Allora, un par di anni fa, dopo che sono diventata vegana, mi sono messa insieme a mio ragazzo attuale, che si chiama Enrico, detto da amici sua Enrico Erfico, mai capito perché è simpatico, carino, ma è un ragazzo normale. E cosa succede con Enrico? Con Enrico, dopo i primi mesi che erano de puro amore, de pura passione, de delicatezza, e a un certo punto Enrico mi dice: sai, a carità, a me mi piace... Insomma, non so come dirtelo, ma mi piace, insomma, voleva mettermela al culo. Vabbè, ma diciamo che negli ultimi anni il sesso anale è, insomma, diventata quasi una pratica comune. Sì, lo so, però non ci stavo tanto abituata. Sai, io credo che Gaetana, quando se tu guardi i film porno negli ultimi 10 anni, anche di più, da quando c'è stato il passaggio tra la pellicola e il digitale e il video, insomma, diciamo che si sono cercati nuovi modi per intrattenere il pubblico. Non era più sufficiente far vedere solo l'atto sessuale, bisognava inventarsi qualcos'altro, e l'avvento di internet ha portato a un'esplosione di questo tipo di comunicazione. Forse può essere. E per cui adesso fondamentalmente, Gaetana, credo che tutti gli uomini vogliano fare sesso anale prima o poi. E allora, insomma, lui ci prova, è stato una volta anche abbastanza simpatico, anche carino, anche dolce. Insomma, cerca di buttarmelo al culo, ma fa male, mi fa male veramente il culo. Lo so, ma perché, insomma, diciamo che ha il pene molto grande? Ma no, me so sbattuta dei cazzi anche più grossi, questo c'è un cazzo normale, non è brutto, però non è neanche sta casa enorme. È abbastanza dritto, per cui non mi dà fastidio. Infatti, quando ho piglio nella fregna va sempre bene, però quando ho piglio nel culo mi fa male, mannaggia. Osteria, vabbè, insomma, è una cosa comune, diciamo. Ci vuole molta delicatezza, molta preparazione, molto allenamento. Infatti. Allora, Gaetana, che cos'è che hai fatto? Racconta ai nostri teleascoltatori. Allora, un'altra, insomma, il mese scorso volevo insomma, diciamo che insomma era il nostro anniversario de stiamo insieme con Enrico e Fico, e volevo fargli il regalo, volevo dire: Enrico, mettimela al culo che sono pronta. Però sapevo già che mi avrebbe fatto male, perché cioè io voglio bene Enrico, però a mortacci sua sto cazzo nel culo non ci voglio, cioè mi dà fastidio, mi fa male. Però volevo provare, volevo pratichirmi. Allora ho cominciato a infilarmi dentro un ditino nel culo. Prima il dito migno, poi il dito medio, poi fine il pollice. E c'è stava. Però effettivamente, cioè, lui c'ha il cazzo più grosso del dito pollice mio. Posso capirlo, cioè, sono anche contento che lui abbia il pene più grosso del tuo dito pollice. Ma raccontaci, dai, arriva al sodo. Insomma, diciamo che ci stava tutto dentro, però quando stavo a pensare che lui mi buttava il cazzo nel culo, mi bloccavo. Allora ho detto, devo provare con qualcos'altro. E allora vado in cucina, avevo appena fatto la spesa dal supermercato vegetariano, avevo delle zucchine piccoline, ho detto, oh, ma sai che c'è? Mi infila la zucchina nel culo, così vediamo. Ah, oh! A me è piaciuto un cifro, proprio bella la zucchina nel culo. Allora ero proprio contenta, cioè mi stava piacendo, alla fine sono anche venuta la zucchina. È spettacolare, ma continua. Allora cioè, diciamo che ho detto, se c'è sta una zucchina, magari potrei piare una zucchina anche più grossa e così mi faccio l'allenamento. Allora, Gaetan, che cosa hai fatto? Allora, ho preso un cetriolo che era più grosso della zucchina e me lo sono infilato così, zoom, e in botto solo, cioè proprio senza neanche star lì a pensare, zoom, cioè è entrato come se fosse una supposta, ma proprio una supposta che veniva risucchiata, cioè proprio sup, hai presente? No, però posso immaginarmelo. Insomma, sto cetriolo stava lì nel culo mio e io stavo bene. E oh, mi sono eccitata un'altra volta, mi è piaciuto un botto, un cifro, cioè. E dicevo, ma mazza, se Enrico c'aveva un cetriolo al posto del cazzo, io mi ho fatto sbattere il culo tutta la vita. Va bene, probabilmente dovremmo mettere qualche bip, Gaetana, ma continua. Allora ho detto, se c'è sta sto cetriolo, c'è sta proprio comodo, facile, ho piato un peperone non neanche troppo piccolo. Gaetana, devi essere precisa, di che colore era il peperone? Ma era quel verde un po' giallo, è presente, che non si capisce bene, anche il gusto era un po' così. Ma perché poi l'hai assaggiato? No, ce n'era un altro della sua famiglia che era sempre giallo e verde, allora ho assaggiato quello. Ci ho fatto la peperonata la sera stessa, Enrico. Ottimo, continua. Insomma, peperone, zoom, anche quello, proprio senza problemi, senza paura. Cioè, è entrato il peperone nel bucio ed è proprio stato fantastico. Gaetana, allora, ricapitoliamo. Zucchina, cetriolo, peperone. Qui stiamo per fare una bella grigliata di verdure anale. Infatti, però non è finita qui. Giusto. Gaetana, raccontaci, dici ancora cosa è successo. Insomma, c'è stavo più a gusto e... ho visto la melanzana, ma melanzana bella grossa, di quelle viole scure, ma proprio grossa la melanzana. Che a me piace cucinare parmigiana e melanzane vegetariana, vegana. Cioè, praticamente c'è un sacco di cose al posto del formaggio, della besciamella, della salsiccia. Va bene, sì, non divaghiamo, Gaetana. Cosa hai fatto? Mi sono infilato una melanzana nel bucio del culo e nel frattempo ho messo il cetriolo nella fregna, tutto insieme! Mannaggia, proprio una grigliata di verdure infinita, e mi piaceva un cifro. A questo punto erano passati già 2 ore, cioè mi stavo già dimenticato di cucinare la cena, di fare cose, cioè avevo tutte ste verdure nel bucio del culo e non ce la facevo più, è troppo bello. Ok, allora diciamo che abbiamo nell'ordine una piccola zucchina, un cetriolo, un peperone verde e giallo e una melanzana molto grosse, e le avevi messe tutte nel sedere. Infatti, sì. E cos'è successo dopo? Avevo finito la verdura, avevo finito tutto, non c'è stava più niente da provare. Ok, ma cos'è successo? Dai, raccontaci, Gaetana. Insomma, tutto il giorno così, tutto scompigliata, mi sono fatta una doccia, ero tutta bella contenta. Era l'anniversario de fidanzamento, ho preparato una cenetta, ho fatto una zuppa di verdure, molte delle quali erano state nel bucio del culo mio, ma secondo me gli è dato anche un po' di sapore. Mi sembra corretto. Allora facciamo la cenetta, è stata molto romantica, alla fine vado da Enrico, eravamo sul divano, io mi spoglio nuda, Enrico era molto contento, c'ha un'arzabandiera che... Mortacci, sembrava un missile nucleare, pronto al lancio. Perfetto, andiamo avanti con questi dettagli che ai nostri teleascoltatori piacciono. Insomma, ti dico, Enrico, so pronta, sbattimi la sarciccia nel culo. E nel mentre che io dicevo, ho avuto un blocco. Lui, Enrico, era già pronto partito col cazzo nel culo mio. E io ho urlato, mortacci tu e tua nonna, figlio della mignotta! Poverino Enrico, mi è anche spiaciuto per lui. Poverino sì. Ma hai sfondato il culo, t'ammazzo! Cosa hai fatto? Io ho tirato una mestolata in testa, l'ho svenuto. Non è niente di grave, Cioè, non è che è una violenza domestica, ha avuto un riflesso incondizionato. Però appena ho detto, buttami la sarciccia al culo, mi sono bloccata. Gaetana, che cosa significa tutto questo? Ho capito che a me la sarciccia nel culo non mi piace, mi piace solo la verdura. So veganal. This podcast has been produced with Pod Cleaner.